A questa consuetudine aria stupida, ricerca introspettiva dell'oblio si contrappone laggiù in fondo. Una tendenza ignota a comandare, e questo antico testo filosofico mi induce a sospettare la propensione di questo antico popolo a condannare la propria condizione di eterni confinati, di musici e mercanti e mistici prostrati. Tiberio nell'inverno del Quirinio metteva sull'Armenia il suo Battista, la zia faceva nascere Giovanni, che non poteva scegliere tra la rivoluzione e la sua testa. Ma che importanza aveva se pensi che qualcuno li declama ai finti funerali di principesse inglesi che portano nel grembo tanti piccoli egiziani. E adesso mi rivolgo un po' anche a te, e adesso mi rivolgo un po' anche a te, e adesso mi rivolgo un po' anche a te che ascolti sempre Radio Vaticane. Il Papa possa muovere le masse ad incontrarsi e invece usa vocaboli di inutile teoretica muffita per fomentarci gli uni contro gli altri e poi rammaricarsi. Io mi rammarico. E la televisione fa sfilare gli arrivati e poi gli mette accanto due o tre uomini qualunque per far vedere un po' la differenza. Per far vedere un po' la differenza. Dentro quelle storie mi si nota un po' di più. Se vengo non vengo, se vengo e rimango in un angolo buio. Dentro quale jet set mi si nota un po' di più. Se vengo sto fermo, se vado ad un reality show poi ci muoio. Dentro le coscienze mi si nota un po' di più. Se porto dentro alla televisione la voce disperata di un uomo a cui non è rimasto niente. Se scrivo su pezzo.